Brexit, come sarà la nuova politica estera del Regno Unito? Piano di Trump, le reazioni dei palestinesi. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Avevamo pensato di essere la generazione che buttava giù i muri, invece ci siamo accorti che tanti li vogliono rialzare. The vast proportion of Palestinians here are indeed children. They tell us they've been evacuated after Israeli forces bombarded their homes. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. 16:07, 20 secondi in questo esatto istante, inizia l'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Due i temi che cercheremo di toccare e di raccontarvi. Da un lato, oggi è il grande giorno per il Regno Unito, che si allontana definitivamente dall'Unione Europea. Va a compimento quel lungo, logorante, stressante per i cronisti che l'hanno raccontato, logorante per i politici che l'hanno votato, l'hanno osteggiato, divorzio appunto dalle Europa. Con quali conseguenze? Oggi proveremo a analizzare come cambierà la politica estera del Regno Unito. Proveremo a proiettare anche la sua presenza militare nel mondo per capire quanto quella presenza militare si possa tradurre in politica estera pro o contro l'Unione Europea che ha appena lasciato. Poi torneremo in Israele e Palestina per darvi ancora conto delle reazioni dal terreno del piano di Trump, il deal del secolo, diceva Donald Trump stesso. Il patto del diavolo, ha tuonato invece l'autorità nazionale palestinese. Insomma, le reazioni sono state tante, visto che l'ultima puntata abbiamo dato più spazio alle reazioni israeliane. Oggi ci concentreremo maggiormente invece su quelle palestinesi. Potete commentare, porre domande al 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24 oppure Giampaz. Ma adesso andiamo a misurare la temperatura. Misurare la temperatura per noi di Nessun Luogo Lontano significa andare a spulciare tra i dossier e i fatti più eclatanti che accadono nel globo e che diventeranno, ve lo ricordo, puntate speciali, magari di Nessun Luogo Lontano, approfondimenti o commenti. Ebbene, per un lungo processo di divorzio che va a compimento, c'è un altro tema che ha interessato, catalizzato l'attenzione dei reporter di tutto il mondo e ha fatto versare fiumi d'inchiostro, ore e ore di diretta televisiva lì davanti alla Casa Bianca, reporter intirizziti dal freddo con l'ombrello aperto notte e giorno per raccontare che cosa? Beh, l'impeachment per Donald Trump. Impeachment che è stato, complice le sue mosse di politica estera piuttosto presenti, offuscato appunto dalle sue ultime azioni e dichiarazioni, ma che adesso torna sotto i riflettori. Perché? Perché quella di oggi è una giornata decisiva. Ieri il senatore Lamar Alexander ha annunciato che voterà contro la convocazione di nuovi testimoni nel processo appunto di impeachment. Allora, la decisione di Alexander era attesa e probabilmente decisiva. I democratici che stanno chiedendo di ascoltare i nuovi testimoni, ma in primis c'è ovviamente, come ricorderete, John Bolton, l'ex consigliere alla sicurezza nazionale di Trump, quello che l'ha sconfessato, ha detto che quella telefonata è avvenuta, che c'è stato un quid pro quo, come dicono gli americani, insomma, che potrebbe inguaiare Trump. Ebbene, quella testimonianza non verrà accolta. I repubblicani avevano bisogno di raggiungere la maggioranza dei 51 voti. Se non ci saranno ulteriori sorprese, se il Senato voterà contro l'ascolto, l'audizione di ulteriori testimoni e la presentazione di nuovi documenti, nuove prove, il processo per impeachment, che è cominciato esattamente due settimane fa, potrebbe concludersi addirittura in giornata. Poi andiamo in Libia, perché è un po' un mosaico di voci e controcanti quello che adesso vi riferisco. Allora, voi sapete che a febbraio l'Italia dovrebbe votare il nuovo accordo con le autorità libiche, che prevede l'addestramento del guardiacoste, la fornitura anche di mezzi per una missione che da molti è contestata per la lesione di diritti umanitari dei tanti migranti presenti sul territorio libico. Si stanno muovendo un po' le grandi organizzazioni non governative, ma anche la politica a livello europeo. Oxfam, che è una delle ONG più grosse a livello mondiale, ha pubblicato un rapporto che denuncia come negli ultimi 4 anni oltre 1 miliardo di euro di aiuti europei sono stati deviati dal loro scopo umanitario e siano invece stati utilizzati per il respingimento dei migranti soprattutto e per l'attuazione di maggiori misure di sicurezza ai confini. Allora, di là di come uno può vedere una politica più o meno ferra, più o meno dura verso l'immigrazione, quello che è incredibile è come dei fondi destinati a uno scopo ben preciso invece vengano con grande leggerezza e anche opacità deviati su scopi che non erano definiti. La Libia è un caso eclatante di questi, ma parlammo qualche anno fa, addirittura se non erro un paio di anni fa, dello stesso meccanismo che portò tantissimi fondi europei in Niger non ad aiutare le popolazioni. Il sottotesto era aiutiamoli a casa loro, uno slogan tanto in voga, cioè aiuto un paese di partenza per evitare, per non creare un'opportunità, un vantaggio nel lasciare il paese e arrivare in Italia e in Europa. Ebbene, intanto si è lavorato soprattutto sui paesi di transito, guarda caso, perché Niger e Libia sono paesi di transito e non di partenza. Nigerini e libici ne sbarcano davvero pochi. E in secondo luogo si è attuata la cosiddetta esternalizzazione delle frontiere, per cui si è andato a investire tantissimo in controlli, misure di sicurezza rigorose. Anche MSF è sugli scudi perché dice che l'Italia non deve assolutamente perpetrare un'esposizione di migranti a lesioni dei diritti ormai conclamati da tantissimi reportage giornalistici ma anche dalle Nazioni Unite, e si è fatto sentire anche Dunja Mijatović, che è il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, che ha chiesto A. la creazione di corridoi umanitari, B. ha detto l'Italia deve sospendere con urgenza le attività di cooperazione con la Guardia Costiera Libica, almeno fino a quando la Guardia Costiera Libica non dimostrerà di essere un guardiacoste a tutti gli effetti e non una milizia. Nel frattempo stiamo anche indagando su una notizia che ci ha riportato Al-Arabiya, siamo sempre in Libia, Una fregata turca nelle scorse ore avrebbe accompagnato un vascello non meglio identificato, ma poi siamo riusciti a identificarlo, pieno di veicoli armati, quindi carri armati e blindati, e lo avrebbe portato accompagnato fino a Tripoli. Abbiamo fatto un po' di indagini, questo cargo si chiamerebbe Banna e porta bandiera libanese e al momento, se cercate l'IMU, non è difficilissimo fare questo tipo di ricerche in internet anche con fonti aperte, sembra diretto verso il porto di Genova. Naturalmente ve ne daremo conto perché si tratta per l'ennesima volta una violazione dell'embargo che l'ONU ha confermato e sostanziato in almeno 110 casi dalla conferenza di Berlino. Stiamo parlando di Libia? Giù tutto. Bengasi oggi ha 13 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 6 giorni di gasolio, 6 giorni di GPL. Tobruk non ha più capacità di stoccaggio di benzina, un giorno di gasolio, un giorno di GPL, mentre Sebaa non ha capacità di stoccaggio della benzina e GPL e 9 giorni per il gasolio. Secondo quanto dichiarato dalla National Oil Corporation, le perdite dovute alla chiusura dei porti sarebbero di circa 562 milioni di dollari. Il tempo sta finendo, le armi di Haftar si stanno spuntando. E la diplomazia? (349) 238 6666 per i vostri messaggi, per commentare le due pagine di Nessun Luogo Lontano. Da un lato parleremo di Brexit, ormai mancano davvero poche ore e tra poco la racconteremo dal campo, perché c'è qualcuno che è lì sulla costa di Calais, sta guardando le bianche scogliere di Dover, tra poco scoprirete chi è. Poi andremo, come già detto, in Israele e territori palestinesi per capire meglio le reazioni da parte palestinese. I vostri messaggi: Brexit, la politica economica, la cosa che temo è che la Gran Bretagna diventi un paradiso fiscale come il Lussemburgo, non ne abbiamo bisogno, così Marco. Giulio, perché se ne vanno dall'Unione Europea? Questa è la domanda, Giulio, vuol dire che non ci segue, abbiamo cercato di scandagliare in tutti i modi, radiografare questo divorzio lunghissimo, le motivazioni, i pro e i contro. Oggi ci concentreremo su un aspetto, quindi le daremo, Giulio, una risposta assolutamente parziale che parte soprattutto dalla politica estera della Gran Bretagna. Trump invita la Gran Bretagna a fare accordi importanti partiti, ma non mi sembra siano partiti così bene con il capitolo 5G e Huawei, così un altro ascoltatore. Andiamo subito a Calais, lo facciamo con Sergio Nava. Sergio, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo. Ciao Giampaolo, buongiorno. Io ho detto che sei sulla spiaggia di Calais, rapito dalle bianche scogliere di Dover, perché il tempo è bellissimo e quindi me lo confermerai, giustamente, no? È un'immagine un po' troppo romantica, no? Non solo sulla spiaggia, ma soprattutto il tempo non è bellissimo, perché è da quando sono arrivato ieri che il cielo è grigio, c'è un vento anche abbastanza considerevole, insomma è una situazione perfetta per un divorzio, per un addio tra due blocchi forse non si sono mai neppure troppo amati. Allora, le nubi all'orizzonte che vedi sono condensate soprattutto, ma non solo, sulla Gran Bretagna, ma anche sull'Europa. Oggi cercheremo di analizzare soprattutto le conseguenze europee di questa Gran Bretagna che si smarca dall'Unione Europea. Altissima tecnologia, un esercito forte, una politica estera che forse negli ultimi anni si è un po' offuscata, ma con quali conseguenze? E cercheremo di capirlo. Uno dei nodi però quando si parla di Unione Europea è, se dovessimo riassumere con un hashtag, immigrazione. Si è spesso parlato di Calais, dei tentativi di tanti migranti afghani, pakistani, siriani di raggiungere Londra. Il mio ultimo ricordo, stando a Calais, a Dunkerque, era decine, centinaia di migranti che transitavano tra un bar e l'altro cercando di nascondersi nei camion. Tu, Sergio Nava, che fotografia ci restituisci della Calais di oggi? Guarda, allora, per quello che è chiaramente potuto vedere in queste poche ore in cui sono stato qui, io ho personalmente percorso tutta la strada che porta dal centro di Calais fino al porto, e sia all'andata che al ritorno non ho incrociato migranti. E tra l'altro lo stesso vice sindaco, che poi probabilmente ascolteremo, Mignonet, e con cui ho parlato, mi stimava un 600-700 migranti. Non in centro a Calais, ma nel territorio di Calais. Non è più così visibile, non siamo più ai tempi della giungla, però c'è un altro problema, se vogliamo, che oltre alla dispersione di questi migranti, che sono tuttora assistiti da associazioni umanitarie, ne ricordo una, Salam, che ogni giorno dà dei pasti in tarda mattinata a questi migranti nei sobborghi di Calais, non in centro. Un altro problema, Giampaolo, è quello delle traversate via mare. Prima la tendenza era quella più di buttarsi sui tir che a ciclo continuo fanno la spola verso il porto, poi hanno cominciato a alzare barriere, a rendere tutto più sicuro, e a quel punto è cominciato un altro business, che è quello, per almeno per i trafficanti di uomini, che è quello del trasporto di migranti verso la costa britannica, ancora più pericoloso tra l'altro. Sì, la voce che sentite è quella di Sergio Nava in diretta da Calais, costa francese. Siamo lì di fronte, poche miglia, le coste, le bianche scogliere di Dover, se non ci fosse nebbia e brutto tempo si potrebbero vedere, quasi toccare. Fino a qualche anno fa era il grande sogno la Gran Bretagna per tanti migranti che arrivavano soprattutto dall'est asiatico, ma anche dalla Siria. Sergio ha già tratteggiato quella che è una delle nuove dinamiche: la rotta è più pericolosa, è più difficile, i trafficanti fanno evidentemente molti più soldi. Chissà come evolverà questo business. Fra poco sentiremo la voce che hai raccolto del vice sindaco di Calais, Philippe Mignonet, che è anche a una delega alla sicurezza. Sergio, però, in qualche modo devo fare un mini spoiler, perché tra un po' gli ascoltatori, se continueranno a sintonizzarsi su Radio 24, a Effetto Notte con Roberta Giordano c'hai un collegamento che è di quelli formidabili, perché si può dire che cosa stai per fare, sì. E certo lo possiamo dire, ecco. Quello faremo domani mattina, ovviamente all'alba di questa nuova Gran Bretagna indipendente. Noi prenderemo, insieme a un tir italiano e al suo autista, prenderemo il traghetto da Calais verso Dover. Ovviamente non ci aspettiamo file, code o disastri, perché tutto resta, però vi racconteremo questa prima traversata mattutina all'alba verso una nuova Gran Bretagna, che da domani è un paese extracomunitario, non dimentichiamolo. Ancora forse non riusciamo mentalmente digerirlo, ma diventa un po' come gli Stati Uniti, non nell'immediato, perché c'è questo periodo di transizione in cui non lo noterete proprio, non lo noteremo proprio, ma dal primo gennaio è come se lo noteremo, sarà un paese a tutti gli effetti terzo. Certo. Grazie mille Sergio Nava. Una volta si diceva il cronista ha una fonte affidabilissima di informazioni, ed è il tassista. Chiunque andava al Cairo, a Baghdad o insomma da qualsiasi altra parte si affidava al tassista, e ci piace l'idea che ti affidi questa volta a un camionista che veramente poteva essere toccato fra l'altro da una Brexit un po' pesante. Grazie mille Sergio, buon viaggio, fate benzina mi raccomando. Alla prossima Sergio. Ovvio. Ciao. Allora, vi aveva prospettato questa mini fotografia da parte di Philippe Mignonet, che è il vice sindaco di Calais, piccolo focus immigrazione, sentite la sua voce. Rappelez-vous, en octobre 2016, le démantèlement du bidonville, ce que moi j'appelle le bidonville. Ricorderete nell'ottobre del 2016 lo smantellamento della bidonville, io l'ho sempre chiamata così, dove si trovavano 10.000 migranti. Sapevamo che poi sarebbero tornati. Oggi siamo a 600-700 migranti nell'area di Calais. Bisogna però precisare che non sono in città. Sono attorno alla città, principalmente concentrati in un'area che non è molto distante dal porto di Calais, dove attendono di poter raggiungere l'Inghilterra. I tentativi di traversata con quelle che chiamiamo small boats effettivamente avvengono spesso. Alcuni tentativi sono stati sventati, praticamente tutti i giorni si effettuano salvataggi in mare. C'è da dire che i migranti che arrivano a Calais, di qualsiasi nazionalità essi siano, non dispongono di imbarcazioni. Attori terzi glieli forniscono. Si tratta di organizzazioni criminali, di persone interessate solo al denaro. E spesso i migranti si ritrovano su barche eccessivamente cariche e tecnicamente sottoequipaggiate. Capita di vedere migranti che tentano di attraversare la Manica in gommone o con imbarcazioni da 20 o 30 cavalli. E si sa che con questi mezzi è praticamente impossibile arrivare dall'altra parte. Inoltre ci troviamo nel nord dell'Europa. Le condizioni meteo non sono quelle del Mediterraneo e c'è un'alternanza di maree, mare basso e alto, che crea delle correnti molto forti. Siamo anche il secondo stretto più frequentato al mondo e quindi di 10 tentativi di traversata, 9 sono destinati a fallire. La comunità internazionale vede che queste persone ogni giorno vanno incontro alla morte. È criminale. E donc ces réseaux internationaux envoient les gens à la mort et c'est profondément criminel aussi de leur. La voce di Philippe Mignonnet, vice sindaco della cittadina di Calais, proprio lì di fronte a Dover, è sempre stato storicamente, almeno negli ultimi 15 anni, il punto di partenza di migranti che illegalmente tentavano di attraversare la Manica e arrivare in Gran Bretagna. Adesso faranno un ulteriore passo, c'è un ulteriore muro che è anche tutto politico perché la Gran Bretagna è un territorio extraeuropeo. Le reti dei trafficanti ne approfittano, i prezzi rispetto a quando sono andato io a Calais l'ultima volta ormai 6-7 anni fa erano, ai tempi in cui io ci ho lavorato, $500 a testa per il passaggio. Adesso si parla, secondo quanto mi diceva Sergio Nava che ha un po' investigato in queste ore, di €5.000 a testa per passare in Gran Bretagna, anche se i numeri sono più risicati. Secondo il New York Times 1.892 persone sono riuscite a raggiungere la costa inglese nell'ultimo anno. Beh, si tratta di un gran bel business, ma è così, il criminale, il trafficante coglie le opportunità, non sempre i muri sono utili. Di sicuro c'è un altro muro e di questo parliamo col prossimo ospite, Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia, ma direttore di Aspenia Online, ma la redazione si sbraccia e mi fa segno che la linea è improvvisamente caduta. Allora, io intanto vado avanti con un ragionamento che è questo, prima di farvi sentire la voce di Roberto Menotti, che è molto semplice. Andando a leggere soprattutto quelli che sono i report concentrati su sicurezza, armamenti, difesa e politica estera, ne emerge un quadro particolarmente complesso e interessante per ciò che riguarda la futura politica estera della Gran Bretagna. La possiamo sintetizzare in questo modo: continuerà ad andare a braccetto con l'Unione Europea o si avvicinerà inesorabilmente agli Stati Uniti e a Donald Trump? 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, ce ne sono tanti. Grande Boris, loro sono finalmente liberi, così Giacomo da Bergamo. Non pensate che presto o tardi si presenterà il problema Scozia? Gentile ascoltatore, non so se è un problema, di sicuro, come dire, l'anelito indipendentista riemergerà prepotente, su questo non c'è dubbio, ma per rimanere territorio dell'Unione Europea. Gli inglesi amano storicamente l'Europa, ma odiano, lo mette tra virgolette, la burocratica UE, non ha torto, così Diego. Carissimi, siamo sempre andati in Inghilterra anche negli anni 60, dov'è il problema? Il problema è proprio di riassetto, dovranno essere stipulati una serie di accordi, di trattati per far sì che quel divorzio sia in qualche modo consensuale, non sia foriero di perdite, di soldi e di... Leggevo proprio recentemente di un grosso ricercatore italiano che ha lasciato l'università britannica per andare a dare il suo contributo intellettuale per esempio a Venezia. Gli esiti sono tanti, non sono probabilmente drammatici come quelli prospettati in caso di hard Brexit qualche mese fa, ma insomma, tant'è. A scorrere un po' di analisi e un po' di report sui vari think tank, tra i quali vi segnalo soprattutto sulle questioni britanniche, ma non solo, il RUSI, è l'acronimo che sta per Royal United Services Institute, è molto interessante come si sottolinei l'assenza futura della Gran Bretagna nella politica estera dell'Unione Europea, cioè il peso che apportava la Gran Bretagna in termini di intelligence, pensate al celebre MI5 e MI6, in termini di armamenti, di un esercito sicuramente molto preparato, dava, come dire, un peso specifico alla pur spesso labile, erratica e leggera politica dell'Unione Europea, un peso assolutamente diverso. E l'altro punto, dicevo, come possiamo ipotizzare e in quali dossier, in quali teatri ci può essere a tutti gli effetti un conflitto, cioè dove gli interessi della Gran Bretagna potrebbero confliggere con quelli dell'ex partner Unione Europea? E gli inglesi che hanno preso i fondi europei che fine faranno? Così si chiede un ascoltatore. Boris ha messo in atto quello che i cittadini, un po' più di metà degli inglesi, hanno chiesto, ma dovrà mediare con loro quasi metà. Adesso c'è un refuso, chiedo scusa, Pierpaolo, Laura, credo che non c'entri Laura in questo caso, immagino con i britannici. L'Inghilterra è una potenza mondiale del 1600, ce la farà la grande, il suo successo sarà la prima coltellata nell'omicidio perfetto all'Europa. Danilo ci consegna così una plastica visione, a mio parere un pochino ottimistica, perché se è vero che nei secoli scorsi l'Inghilterra era una potenza in tutto il mondo, assolutamente, francamente negli ultimi anni non vedo lo stesso peso, quantomeno in politica estera. Dopo vi parlo di un altro punto che è importante perché va a toccare un problema serissimo, che è quello del terrorismo. Quando si parla di terrorismo si parla di intelligence, cioè raccolta di informazioni. Vi ricordate che ci segue, avevamo raccolto delle statistiche, stimato che per un potenziale lupo solitario, un jihadista per esempio in territorio britannico, ci volevano almeno una ventina di agenti H24 dei servizi segreti per monitorarlo e soprattutto condividere informazioni con i servizi segreti inglesi, italiani, tedeschi, francesi. E una volta che si esce dall'Europa, quella banca dati verrà ancora condivisa? E se sì, in che modo? Tante domande, vedremo se avremo le risposte. Piccola pausa, l'informazione finale. Nessun luogo è lontano. Hanno votato 683 deputati, favorevoli 621, contrari 49, astenuti 13. Così è suonato il congedo dal Parlamento europeo degli ultimi parlamentari britannici, lo avete sentito. Fatemi andare da Roberto Menotti, direttore di Espania Online. Direttore, buongiorno, ben trovato nel suo luogo lontano. Buonasera a voi. Allora, al di là, come dire, dell'aspetto più strettamente folcloristico, i canti appunto lì a Bruxelles, oggi ci concentriamo su un tema molto specifico, molto verticale, che è quello della politica estera, ma anche della sicurezza. Io ho provato nella prima pagina di questo programma a buttare giù quelle che sono secondo me le più grandi sfide che ha di fronte il Regno Unito. Partiamo da una prima domanda molto, molto generale. Nonostante il divorzio con l'Europa, è più facile in tema di politica estera un avvicinamento con gli Stati Uniti o continuare ad andare braccetto con l'ex moglie, quindi l'Unione Europea, secondo lei, direttore? Credo che un po' così triste dirlo, ma saranno difficili entrambe le cose per i britannici. Perché l'eredità di questo divorzio, che inizia in realtà ora ad essere negoziato nei dettagli, purtroppo un po' peserà. C'è un forte interesse sia da parte britannica che da parte del resto degli europei a mantenere certamente un rapporto stretto, ma non credo che sarà semplice, perché non lo è stato in passato e non vedo perché dovrebbe essere ora più agevole, sarebbe davvero paradossale. Certo, lo sforzo lo faremo noi dell'Unione Europea e lo faranno anche i britannici, ma non sarà certamente una discussione agevole. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, con una presidenza come quella di Donald Trump, nulla è semplice. Vedremo però in futuro, naturalmente, ci sarà certamente un parziale riavvicinamento fra Stati Uniti e Gran Bretagna. Sì. Questo sì. Sì. La voce di Roberto Menotti, direttore di Espegna Online, da un lato, come dire, sta tratteggiando una manica, un canale della manica che diventa sempre più largo in qualche modo. È un oceano atlantico che si restringe. E con questa metafora stiamo ipotizzando un avvicinamento di Boris Johnson a Donald Trump. Voglio dire, i due flirtano ampiamente da tempo, quindi non ci stupirebbe. Un report del Royal United Services Institute sottolineava una cosa, un think tank britannico di lunga fame, piuttosto autorevole: la possibilità che in tema di sicurezza, esercito, politica estera più in generale, si formasse una sorta di triunvirato tra Francia, Germania e UK, in qualche modo un po' quell'Europa un po' più attiva, un po' più muscolare, e a questo punto una nuova geografia anche della politica estera europea e britannica. È d'accordo? Questa potrebbe essere una formazione che detterà la politica estera nei prossimi anni? La tentazione certamente esiste, e lo dimostra anche il fatto che una proposta in qualche modo simile è già arrivata proprio da Berlino e da Parigi. Già dal 2018 c'è stata l'idea, un po' generica, sì, un po' vaga, ma comunque fatta circolare, di una sorta di cosiddetto Consiglio di sicurezza europeo, proprio, sì, per tenere agganciata la Gran Bretagna. Nella realtà credo che non sarà agevole nemmeno questa opzione, perché questo significherebbe per Francia e Germania sganciarsi a loro volta dal resto dell'Unione Europea, che comunque dà una forza complessiva, una forza aggiuntiva anche alla Germania e alla Francia. Quindi credo che la tentazione ci sia realmente, e c'è sempre stata, non è una novità, sì. Ma penso che tutto sommato si cercheranno delle soluzioni un po' più, diciamo così, complessive, un po' più, insomma, integrate anche con gli altri. Sì. A cominciare, direi, dall'Italia e dai paesi nordici, che sono comunque importanti in alcuni aspetti della sicurezza anche per Francia e Germania. Sì, lei diceva paesi nordici, mi è venuto immediatamente in mente le lunghe esercitazioni di settimane e settimane in Estonia, per esempio, dove a un certo punto, come dire, la minaccia dell'orso russo si era fatta un pochino più evidente. Questo, per esempio, è un caso in cui, a mio modestissimo parere, come dire, lì la divergenza tra politica estera dell'Unione Europea, politica estera e difesa nel caso, assieme, e del Regno Unito sono assolutamente divergenti. Quali potrebbero essere i dossier e i quadranti nei quali, appunto, a un certo punto ognuno va per sé, e l'Europa non avrà più il peso specifico che dicevo prima, gli armamenti, l'intelligence, l'expertise anche dell'esercito britannico, e quindi un peso specifico minore, in sostanza? Dove ci potrebbe essere questo disgiungimento, questo ognuno per sé, secondo lei? Ma certamente uno è quello che ha appena menzionato lei, cioè la Russia. Qui effettivamente c'è un certo rischio di, come dire, sbilanciamento verso est, per così dire, del baricentro dell'Unione Europea. È un pericolo che esiste, ma che tutto sommato credo possa essere contenuto, perché anche la Germania si rende conto che non può esagerare, non può fidarsi più di tanto della Russia, di Putin, sì, in particolare. Sì. Però esiste effettivamente questo rischio. Sì. L'altro potrebbe essere in qualche modo su alcuni dossier, diciamo, mediterranei, medio orientali, che peraltro interessano moltissimo all'Italia, perché anche qui tutto sommato in passato la Gran Bretagna ha rappresentato un elemento di collegamento anche con gli Stati Uniti, quindi, certo, se vogliamo con la NATO, che ora viene un pochino a mancare. La NATO ovviamente continua ad esistere, per fortuna, però certo un certo scollamento, soprattutto, sì, con la sicurezza, diciamo, transatlantica, lì ci potrebbe essere. Quindi, certo, su questi due quantomeno un po' di rischio esiste. Certo, Roberto Menotti, direttore di Espegna Online, ha sottolineato un punto che forse è il vero vulnus di tutto. La Gran Bretagna esce dall'Unione Europea, si discute tanto dell'esercito europeo, ma in realtà, insomma, sostanzialmente non c'è niente, però la Gran Bretagna rimane dentro la NATO, e la NATO su tanti dossier, anche di interesse europeo, è pur sempre presente. Vi ricapitolo brevemente, poi le faccio l'ultima domanda. Menotti, ricapitolo anche uso e consumo dei nostri ascoltatori, quella che è la presenza militare inglese all'estero, perché non ci stancheremo mai di ricordare come la proiezione militare possa anche tradursi in un'efficace politica estera. Lungi da me, come dire, sbandierare bandiere da guerrafondaio, ma è chiaro che una presenza militare aiuta in alcuni contesti la politica estera. Detto ciò, sono circa 11.000 i militari britannici impiegati all'estero in 30 paesi, dalla Somalia all'Ucraina, dall'Estonia al Sud Sudan. I contingenti più numerosi: Afghanistan 1.000, Iraq 1.400, Estonia 900 soldati inglesi inquadrati, guarda caso, nell'ambito della missione NATO. Poi sono in Gabon, Malawi e Zambia per operazioni anti-bracconaggio, Nigeria e Mali. Allora, c'è un ultimissimo punto. lo scambio di informazioni, il rischio jihadista e il controllo del terrorismo in territorio europeo. Prima c'era una collaborazione molto più fluida, immagino, grazie a dei trattati, a delle come dire, consuetudini, no? vere e proprie. Adesso che la Gran Bretagna se ne va fuori dall'Unione Europea, l'MI5, l'MI6, come si parleranno con i servizi segreti francesi? Come si scambieranno informazioni su un presunto jihadista che parte dall'Italia e vuole andare a Birmingham? Lei vede anche in questo un vulnus? Qui direi potremmo essere forse un po' più ottimisti, perché la collaborazione fra i servizi di intelligence è tradizionalmente molto bilaterale, da sempre un po' per tutti i paesi, viene tenuta per ovvie ragioni piuttosto riservata. È vero che la presenza all'interno dell'Unione Europea aiutava, non c'è dubbio, anche per la gestione dei confini, delle frontiere, quindi certamente un passo indietro purtroppo lo avremo, però non credo che andrà direttamente a inficiare la collaborazione su tematiche, ecco, come l'antiterrorismo, le questioni che lei ha ricordato. Sì. Per esempio sull'Africa, molti paesi africani importanti e diciamo a rischio, soprattutto a rischio jihadista, eccetera, credo che la collaborazione continuerà. Certamente bisognerà trovare delle formule che per adesso magari non sono ancora state del tutto come dire, organizzate per assicurarsi effettivamente che la Gran Bretagna rimanga strettamente connessa con i nostri servizi. Non dimentichiamo poi di nuovo che anche qui la Gran Bretagna ha una sorta di ruolo un po' di ponte con il mondo anglosassone a guida americana, perché fa parte del famoso Five Eyes, che è questa struttura piuttosto informale legata appunto ai servizi di intelligence, essendo l'unico paese europeo ad esserne parte. Sì. Quindi è doppiamente importante fare questo sforzo, ma non credo che ci saranno conseguenze drammatiche, diciamo. Ecco. Insomma, se posso tradurre, Roberto Menotti, mi appoggio a una metafora, diciamo, amorosa, quasi elegiaca: divorziamo sì, però alla fine continuiamo a rimanere in ottimi rapporti, anzi, magari continuiamo anche a volerci bene, e sul campo di difesa e sicurezza, è ben inteso. Grazie mille, Roberto Menotti, direttore di Espen Online. Buona giornata, buon lavoro, direttore. Grazie a voi, grazie. Allora vi leggo un po' di messaggi, un po' il polso degli ascoltatori di Nessun Luogo Lontano, poi voltiamo pagina perché mi preme tornare sulla questione israelo-palestinese. Manuel da Valenza si lascia andare a lo leggo, dai, via, è venerdì, siamo tutti un po' stanchi, possiamo alleggerire. Sicuramente Boris Johnson e Donald Trump vanno dallo stesso parrucchiere. Qua mi fermo e vi prego però di non arricchire la collezione di messaggi così, diciamo, un po' leggeri. Torniamo alle cose un po' più serie. La cosa che mi sconvolge, a parte l'inefficienza e l'ignavi, l'inutilità quasi dell'Europa, è che non si sia ancora recepita la lezione degli antichi latini, divide e timpera, e che tanti piccoli staterelli di fronte ai giganti sono destinati a crollare. Viva l'Allegra, viva il sovranismo, eccetera, eccetera, eccetera. Londra ha fatto sempre gli interessi propri, nonostante le fantasie dei giornalisti, forza UK. Insomma, mi sembra che dal vostro polso, dal polso degli ascoltatori, che è certamente un pezzo chi mi scrive, che vi sia un plauso comunque a questa politica, a questo divorzio. Detto ciò, facciamo una cosa. Andiamo subito, prima della pausa, iniziamo a parlare della questione israelo-palestinese. Unilateralism doesn't work, never work. He is asking me to move further step to accept to live as a third or fourth class citizen under the boots of the Israeli occupiers and settlers. This will never happen. L'unilateralismo non funziona mai. Se mi chiedessero se siamo disposti a andarcene come cittadini di terza o quarta classe sotto gli stivali degli occupanti, beh, dico che non accadrà mai. A parlare così è Saeb Erekat, il segretario generale di un'autorità palestinese, l'organo della liberazione nazionale della Palestina, scusate, e che non le manda certo a dire, accoglie così quel piano di pace di Trump. Nel frattempo vi devo ricordare che in questa giornata, che era stata indetta, condita di manifestazioni, giornata della rabbia, secondo tutte le principali anime palestinesi, vi sono registrati sia scontri alla spianata delle moschee a Gerusalemme, razzi lanciati da Hamas dalla striscia di Gaza verso Israele, la risposta immediata dell'aviazione israeliana, vi sono anche feriti in Cisgiordania. Insomma, la situazione è piuttosto tesa. Avevo promesso maggiori reazioni più articolate per andare un po' meglio, come dire, a spulciare quelle 150-80 pagine di rapporto di Trump, il piano di pace di Trump di cui vi abbiamo dato conto. Abbiamo deciso di affidarci alla voce di uno scienziato. Mazin Boutros-Koumizié è uno scienziato, insegna all'Università di Betlemme, dirige il Museo di Storia Naturale della Palestina, però è anche un attivista, ha scritto parecchi volumi sul rapporto tra israeliani e palestinesi. Un primo punto che secondo noi è nevralgico: il silenzio degli Stati Arabi in merito all'accordo tra Trump e Netanyahu, in sostanza in omaggio di un nuovo rapporto, di una normalizzazione, di un avvicinamento a Stati Uniti e Israele. Gli Stati Arabi, che di solito difendono la causa palestinese, beh, insomma, sono sembrati leggermente proni. Sentite cosa dice. Per prima cosa bisogna capire, e io voglio sottolineare, che da parte nostra questo non è un accordo. Questo è il compimento di un piano israeliano che va avanti da 70 anni, un piano coloniale per creare una sorta di apartheid e imporre questo sistema sul popolo palestinese. A questo punto Israele ha conquistato non solo la Palestina, ma anche gli Stati Uniti, grazie a tre personaggi che ormai conosciamo molto bene, ossia Jared Kushner, David Friedman e Jason Greenblatt. Sono tutti e tre dei fondamentalisti. Tutti e tre sostengono gli insediamenti dei coloni. E voglio sottolineare questi aspetti perché se non parliamo delle origini di questo cosiddetto accordo, poi non possiamo capire le reazioni. Ora, sul fronte delle reazioni da parte degli altri paesi arabi, sta succedendo esattamente quello che ci si aspettava quando gli Stati Uniti si muovono con tutto il loro peso. Ci sono alcune nazioni che potrebbero essere suscettibili alle pressioni statunitensi e gli Stati Uniti possono persuaderle a fare ciò che non vorrebbero fare. Ma mi pare che questa stia diventando sempre di meno la questione centrale. Penso che gli Stati Uniti e la loro politica imperialista stiano già cedendo il passo a nuove potenze come la Cina e la Russia. E quindi non credo che alla fine ci sarà molto sostegno a questo strumento degli israeliani. La voce e la fotografia spietata non le manda certo a dire Mazin Boutros-Koumizié, scienziato, scrittore e direttore del Museo di Storia Naturale della Palestina. È lì da Betlemme, ha accolto il piano di Trump con queste parole. Tra poco vi darò conto di altre osservazioni più generali sulla presenza israeliana nei cosiddetti territori occupati e in West Bank, ma non solo. Prima le strade italiane, poi l'ultima parte. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, Nessun luogo lontano, l'ultima pagina, questione israelo-palestinese dopo la proposizione del piano di pace di Trump, così dettagliato, così innovativo secondo l'amministrazione statunitense, ma la risposta da parte palestinese è al vetriolo, pacata e sobria, ma nelle parole di Mazin Boutros-Koumizié, scienziato, scrittore e direttore anche del Museo di Storia Naturale della Palestina, ci ha parlato da Betlemme e insomma in buona sostanza va a cristallizzare un'occupazione e un apartheid. Forse però, mentre un ascoltatore al 349-238-6666 dice ma perché i palestinesi non mettono a referendum l'accettazione almeno del piano di Donald Trump? Beh, semplicemente perché non possono accettarlo, non erano invitati, questa è una dei vulnus che abbiamo sottolineato fin da subito. Sentite ancora lo scrittore palestinese, perché ci siamo chiesti, ma non è che a un certo punto una cosa buona per i palestinesi, dal loro punto di vista evidentemente l'ha ottenuta Trump, la leadership di Hamas e Fatah, a un certo punto dovranno trovare una visione comune? Sentite. I believe I'm optimistic about this point that the Palestinian faction will understand. Sono molto sicuro su questa questione. Penso che le varie fazioni palestinesi debbano trovare un accordo, perché ne va della loro stessa esistenza. E non si tratta solo delle fazioni che rappresentano, ma davvero di tutto il popolo palestinese. La voce di Kumsieh, palestinese, attivista, scienziato, scrittore, però proviamo a indagare anche le ombre della leadership palestinese. Hamas e Fatah non hanno forse commesso degli errori sia nei negoziati ma anche nell'uso della violenza. Sentite cosa dice l'osservatore palestinese. Certamente tutti commettono degli errori. Spero solo che gli errori più grandi siano alle spalle. Ad esempio, penso che l'errore più grande commesso da Fatah sia stato di accettare gli accordi di Oslo e venire meno al rispetto di alcuni diritti umani solamente per ottenere la creazione di un'autorità nazionale palestinese. Così la voce di Mazin Boutros-Kumsieh. Adesso andiamo a Gerusalemme in diretta con Candida Lopez, operatrice umanitaria di MSF, Medici Senza Frontiere. Candida, buongiorno, ben ritrovata in Nessun Luogo Lontano. Salve, buongiorno. Allora, proviamo a aprire un piccolo focus, abbiamo davvero pochi minuti, su che cosa? Sui giovani palestinesi. I giovani palestinesi, spesso minorenni, sono quelli in prima linea negli scontri, 48 ferite per il momento in Cisgiordania, sono quelli, scusate, disoccupati, quelli che devono passare i checkpoint per andare a scuola, sono quelli che tirano le pietre da Gaza, ma sono anche quelli che provano ad andare a scuola, dovranno votare prima o poi per la nuova autorità nazionale palestinese e saranno magari la futura leadership palestinese. Proviamo a tratteggiare un giovane, un teenager nella West Bank. Candida Lopez, voi avete tanti progetti, lavorate anche sul sostegno psicologico e psichiatrico in alcuni casi, ci aiuta a capire meglio un teenager di Ramallah. MSF ha anche nella Cisgiordania questo progetto di supporto psicologico. Molti dei nostri pazienti L'abbiamo persa. Candida Lopez, non si sente, proviamo a recuperarla al volissimo perché davvero siamo in chiusura. Guido, ma ascoltare anche qualche israeliano? No, Guido, proprio ieri abbiamo fatto sentire soprattutto la voce israeliana con voci anche piuttosto conservatori. Un editorialista del Jerusalem Post e ascoltatori dall'altra parte ci rimproveravano che non facevamo sentire le voci palestinesi. Proprio ieri dicevo, è un tema complesso, non si poteva esaurire in una puntata sola. Un governo israeliano e fazioni palestinesi, come ci si accorda, si chiede un ascoltatore, sottolineando come dire la doppia leadership palestinese nella West Bank e a Gaza, e sottolineando, mettendo in maiuscolo, un e fazioni palestinesi. Su questo assolutamente non vi è dubbio. Qualcuno torna sul fatto delle elezioni, il 3 marzo si rivota di nuovo in Israele, mentre stiamo disperatamente cercando di recuperare il collegamento con Candida Lopez da Gerusalemme, con la quale volevo tratteggiarvi un po' quella che è la gioventù palestinese. Vediamo se ce la facciamo. Sì, abbiamo pochissimo tempo. Candida Lopez, rieccoci. Allora, ci diceva, avete dei progetti di sostegno psichiatrico e psicologico in molti casi, ma torniamo, come dire, al profilo tipo di un ragazzino palestinese di Ramallah. Non ce la facciamo, il collegamento è pessimo, però mi riprometto con una linea migliore sicuramente di riospitarla. Candida Lopez, se mi sente, buona giornata e buon lavoro in questo venerdì così difficile. È stato chiamato il venerdì della collera, della rabbia se preferite, dopo la è venerdì, no, questo non lo leggo però. Come fa a arrivare a Bibbiano? È un programma di esteri questo, insomma, su via, dai, un po' di serietà. Dicevo, la rabbia dei palestinesi, il ributtato, ha rigettato al mittente questo piano, sostanzialmente visto come un'imposizione, e alcuni, attenzione, stati arabi che hanno, in omaggio a una normalizzazione con i rapporti con Israele, con gli Stati Uniti, cercato, come dire, un cauto silenzio, un pacato scuotere il capo verso il basso per dire sì, beh, alla fine non è tanto male. Quello che trovo incredibile, ma è una mia opinione personalissima, è come nel mondo arabo si sia tanto sbandierata la questione palestinese, i nostri fratelli palestinesi da difendere, e poi a un certo punto un vuoto incredibile, assordante, da parte proprio di quelle nazioni che dicevano essere grandi difensori del popolo palestinese. Ma si sa, la politica molto spesso è realpolitik, politik e la politica estera forse ancora di più. Detto ciò, con grande calma, perché siamo in anticipo di ben 20 secondi, una parola. Che lancia i titoli di coda, che servono a ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo. Voi che siete stati all'ascolto, vi ricordo che l'appuntamento è domani ore 10 col meglio di un po' uno shakerato dei temi più forti della settimana. E poi lunedì ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.